alla mercede, angelica spietata, del mio amor di mia fede. Non vi gioverà da me fuggire, che se lo daterò anzi sulla strada, vi giungerà il mio sdegno e la mia spada. Almeno